Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il mattino del rapimento di Aldo Moro ero sul tram da casa mia a Palazzo Nuovo, sede dell'università. Il tram si fermò in pieno centro. Le strade si stavano riempiendo di gente uscita da negozi e uffici. Il traffico si era fermato spontaneamente. Mi chiamo Angelo Microsoft, sono di Torino, ho quasi 60 anni, sono stato sociologo per formazione e mestiere, lo sono ancora come abitudine mentale. Adesso scrivo, ho appena pubblicato un libro di poesie. Ci sono due notizie che riguardano giovedì sera, giovedì 27 giugno 2013, verso le 21, localizziamolo, qui a Milano. Ripeto, due notizie, una buona e una cattiva. Partiamo dalla notizia cattiva. La notizia cattiva è che danno pioggia, tanta pioggia, giovedì. La notizia buona è che siamo al coperto. Buongiorno a tutti, questo è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui, sono le 16:08, vi dicevo il live è al coperto, c'è stata qualche settimana fa l'idea di farlo all'aperto, fortunatamente non è andata così, per cui si svolgerà come al solito all'interno della sala collina, sotto la collina disegnata da Renzo Piano, qui nella sede di Radio 24, via Monterosa 91. Vi aspettiamo, ricordatevi di portare con voi il foglio stampato dell'iscrizione, se non ce l'avete provvederemo noi ad averne altri per farveli compilare e per poter entrare. Quindi l'appuntamento è, come già vi diciamo da ormai un mese, giovedì 27 giugno, cioè dopodomani, dopodomani alle 21 qui a Radio 24. Portate con voi una bella busta, perché ci sono sempre un sacco di gadget a disposizione. No, la busta ve la diamo comunque noi, la busta è piena di gadget. Tra gli altri, visto che alcuni potranno avercela, altri no, io vi consiglio di scaricarvi la versione in formato elettronico, essendo un ebook chiaramente in formato elettronico, di questa stagione di Voi siete qui. Sono 101 racconti selezionati, presi, stampati e messi online. Lo potete scaricare gratuitamente attraverso il nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi siete qui. Ci arrivate facilmente perché c'è in alto la fotografia del protagonista della puntata di oggi, che è Angelo, sulla sinistra l'iscrizione al live ormai inutile perché è sold out, e sotto scarica il nuovo ebook di Voi siete qui, il meglio delle storie andate in onda nella stagione 2012-2013. Stavo leggendo esattamente la didascalia. Torniamo a noi, perché oggi dobbiamo come al solito fare quello per cui siamo qui, ed è raccontare una storia. Lo facciamo ormai da due stagioni, stiamo per chiudere la seconda, oggi è l'ultimo martedì di diretta, siamo in onda in diretta da qui dagli studi della radio fino a venerdì, e poi per tutto il mese di luglio c'è una selezione molto particolare che va per macro temi, diciamo, per argomenti, che vi terrà compagnia per tutto il mese di luglio. Poi ad agosto succederà altro, non lo so, e se non casca al cielo, come prima mi ha detto Maria Teresa, che sarà ospite giovedì sera al live, e se non casca al cielo ci risentiamo poi a settembre. 349-238-6666. Oggi parliamo di un avvenimento storico che è pubblico, ovviamente, come tutti gli avvenimenti storici importanti, e che diventa in qualche modo privato. E lo facciamo attraverso la storia biografica di Angelo, che ci racconta dove si trovava e cosa stava accadendo nella sua vita il giorno del rapimento di Aldo Moro. Vorremmo, abbiamo già fatto partire questo esperimento sul profilo Facebook, Voi siete qui R24, come facciamo sempre. Vorremmo cercare di farvi ricordare un episodio storico particolare legato a un vostro episodio privato. Cioè, stavate facendo qualcosa di particolare quando l'Italia ha vinto i mondiali, quando c'è stata una slavina che ha causato delle vittime, quando c'è stata una festa particolare. Questo esperimento al 349-238-6666 l'abbiamo già fatto, come vi dicevo, su Facebook, e quello che viene fuori è che moltissimi fanno riferimento all'11 settembre. Io credo perché questo, oltre che essere stato un avvenimento molto importante della storia recente, è anche uno di quegli avvenimenti con cui si è cominciato questo esercizio. Dove eravate durante l'11 settembre? Cerchiamo di andare via dall'11 settembre e cerchiamo di andare ad altri avvenimenti. Vi faccio un esempio, come Arianna, 19 luglio 85, la tragedia di Stava. Stavo andando al mio campeggio estiva e mi accompagnava una famiglia già dotata di rudimentali mezzi di comunicazione mobili, che continuavano a mandare messaggi concitati. Fermi in mezzo alle strade, grandi movimenti di soccorso, 268 morti. 9 novembre 1989, Vito, sera, guardavo incredulo la TV della gente che distruggeva un muro. Mi chiedevo cosa significasse e me lo domando ancora oggi. Mirone Giuseppe, Mondiali 94, avevo 17 anni. Considerando che sono una donna che non adora il calcio, allora evidentemente usi il profilo di qualcun altro perché non ti chiami Giuseppe, è tutta, e dico tutta una piazza all'ultimo rigore di Baggio, trattenne il respiro e alla fine per le emozioni piansi anch'io. Ciao Katia, infatti usa evidentemente il profilo di qualcun altro. 349-238-6666, un avvenimento privato della vostra vita che combacia con un avvenimento storico della storia di questo paese o di questo pianeta. 349-238-6666, questa qui è la storia di Angelo. Il mattino del rapimento di Aldo Moro ero sul tram da casa mia a Palazzo Nuovo, sede dell'università. Il tram si fermò in pieno centro, le strade stavano riempiendosi di gente uscita da negozi e uffici. Il traffico si era fermato spontaneamente. Andai a piedi fino all'università. Ovunque la stessa situazione agitata, confusa. La giornata era clemente, marzolina. A prima vista la reazione della gente era di stupore, di incredulità, anche di rabbia. I commenti più frequenti, colti camminando, erano «Hanno rapito Moro, hanno ucciso i cinque della scorta». Operai non ce n'erano. Solo a Palazzo Nuovo incontrai le prime reazioni di sdegno e condanna delle BR, ad opera di alcuni militanti del Manifesto e della FIGC. Per molti giorni la gente comune continuò a riproporre le stesse considerazioni. Ma in quei giorni c'era una grande agitazione, come tutto il 77-78, sia in positivo che in negativo. Il movimento stava avviandosi alla fine, il movimento studentesco e così via. E quel giorno è stato un giorno particolare perché anche la gente normale, parlo del giorno del rapimento, anche la gente cosiddetta normale dei negozi, dagli uffici, sono scesi tutti per le strade, attoniti rispetto alla cosa. Le possibili implicazioni per la politica e la vita quotidiana non si immaginavano neppure. Il rapimento di Moro, almeno a Torino, era visto essenzialmente come una faccenda interna a quella che oggi viene chiamata la casta. La mia reazione al rapimento era più di attenzione sociologica che altro. Qualche giorno dopo scesi a Roma per iniziare la mia storia d'amore con Juliette. Viaggiai in treno. Malgrado l'allarme generale, nessuno fece controlli fra i viaggiatori e avrei potuto essere chiunque. Con Juliette per 2 settimane girammo per Roma e dintorni senza mai subire un posto di blocco o un controllo documenti. Nelle due città la vita quotidiana sembrava molto diversa. A Torino, per quanto ricordo, non cambiò molto. Molto più da retrovie di un paese in guerra appariva invece Roma, anche se la vita quotidiana per me, per noi due, non era molto cambiata. Ero a Roma in un secondo viaggio da Juliette, anche il giorno del ritrovamento del cadavere di Moro. Quel giorno eravamo ospiti di 2 professori universitari amici di Juliette. Ricordo di aver scritto qualcosa in cui esprimevo la stessa amarezza, lo stesso disincanto che avevo provato dopo il convegno del settembre 77 a Bologna. Quella sera avevo deciso di rientrare a Torino, come al solito in treno. Verso le 20 decidemmo di andare a mangiare un boccone prima che partissi. Non eravamo sereni, attoniti piuttosto. No, non ero in un gruppo politico, facevo parte di un collettivo scientifico così chiamato all'Università Scienze Politiche. Mi occupavo, ero responsabile insieme a altri 2 dei corsi di 150 ore monografici che esistevano allora, in cui praticamente i consigli di fabbrica venivano all'università a riunirsi e a discutere i problemi della crisi e della ristrutturazione, quindi una roba piuttosto interessante. Salimmo sulla Renault 4 rossa del professore, auto molto diffusa in quegli anni, e ci avviamo per le strade di Roma. Erano completamente deserte, tutti i negozi, bar, ristoranti serrati, nemmeno una volante della polizia in giro, assolutamente nessuno. Un po' contrariati, un po' perplessi, andammo verso la periferia e finalmente trovammo una trattoria pizzeria con le saracinesche semi abbassate e la luce accesa all'interno. Mi abbassai sotto la serranda per chiedere se potevamo mangiare una pizza e quando alzai la testa ricordo una vecchia popolana e qualcun altro con le mani alzate e gli occhi sbarrati. Ci diedero da mangiare alla fine, ma naturalmente lo fecero controvoglia. Fu un cibo tutt'altro che meritevole di ricordo. Poi mi accompagnarono alla stazione verso le 23. A Termini era già buio. Anche lì nessuno. Biglietterie chiuse, nessuno delle FS né delle forze dell'ordine. Feci un viaggio completamente solo sul convoglio per Torino, senza mai dover mostrare il biglietto e dormendo tranquillo sui sedili di uno scompartimento di seconda classe. E quanto son cambiato da allora? e l'eschimo che conoscevi tu. Lo porta addosso mio fratello ancora, e tu lo porteresti e non puoi più. Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Il mattino del rapimento di Aldo Moro ero all'asilo. E non lo so, probabilmente stavo cercando di incastrare un mattoncino della Lego sopra un altro. Era il 16 marzo del 78 e io non avevo ancora 3 anni. Ovviamente conosco la storia del rapimento di Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta, così come so come andò a finire quella storia. Però non riuscivo ad immaginare che cosa si provasse, anche cercando di rifletterci, di pensarci, che cosa si provasse in Italia in quei giorni in cui io giocavo con Lego all'asilo. Allora, dopo aver letto la storia di Angelo, ho fatto una cosa che il web permette di fare in maniera molto semplice. Ho cercato gli articoli usciti sui giornali italiani il giorno dopo quell'avvenimento e li ho letti come se mi trovassi in un bar con un quotidiano davanti, la mattina del 17 marzo del 1978. Questo è l'editoriale dell'allora direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella. Il sequestro di Aldo Moro e la barbara uccisione dei 5 agenti di scorta sono l'avvenimento più drammatico e l'episodio politico più grave avvenuto in Italia negli ultimi 30 anni. Si impongono una realistica valutazione dei fatti e una lucida analisi delle loro conseguenze. Inoltre, fin da ora, occorre domandarsi in che modo lo Stato debba reagire dinanzi a un'escalation del terrorismo così vistosa e brutale. Inutile nascondere la verità, per amara che sia. Col sequestro dell'onorevole Moro, le Brigate Rosse hanno dimostrato una capacità di colpire superiore a qualunque previsione. Dopo una serie di attentati preoccupanti per la loro frequenza, ma rivolti contro bersagli non troppo protetti, questa volta si è rapito il leader indiscusso del più grande partito italiano, che come tale aveva diritto a una sorveglianza particolarmente attenta. L'efficienza dei terroristi è fuori discussione, ma è lecito chiedersi fin da ora se si possa dire altrettanto dei nuovi servizi segreti e delle persone alle quali è affidata la tutela dell'ordine pubblico. Se è possibile rapire un uomo come Aldo Moro, ciò significa che nessun cittadino italiano può oggi sentirsi al sicuro nella propria patria, e questa constatazione è mortificante. Ma la considerazione ancora più allarmante è un'altra. Fra tutte le imprese terroristiche prevedibili si è verificata, purtroppo, quella che potrebbe avere le conseguenze più funeste. È stato rapito proprio l'uomo che negli ultimi tempi era emerso come il leader di maggiore autorità e prestigio e che resta il più autorevole candidato alla presidenza della Repubblica. I terroristi hanno colpito non solo l'uomo oggi più importante d'Italia, ma quello più difficilmente sostituibile. Sotto il profilo politico, il suo sequestro rappresenta un attacco al cuore dello Stato. In momenti come questo, prima di decidere che cosa fare, occorre avere chiaro che cosa non bisogna fare. Anzitutto, non cedere al ricatto. Né vediamo quale utilità e quale senso avrebbero il ripristino della pena di morte e l'applicazione delle leggi razziali. Non va dimenticato che l'onorevole Moro, sotto il profilo giuridico, è un cittadino come tutti gli altri. Quei politici che hanno reclamato leggi straordinarie dovrebbero riflettere un istante. Se certe drastiche misure repressive serviranno veramente a qualcosa, perché si è aspettato il rapimento di un leader politico importante per chiederne l'applicazione? Si impone, infine, sui temi di fondo, una maggiore concordia tra i partiti, quella per cui si è adoperato l'onorevole Moro. Si impone un maggiore impegno, sia dei partiti che del governo, per acquistare un minimo di credibilità fra i disoccupati, gli emarginati e i giovani. Va riconosciuto che ieri il Presidente del Consiglio non si è certo risparmiato nell'enunciare nuove iniziative e promettenti programmi, ma ormai le sole parole non bastano più. Lucia si ricorda ad esempio la morte di Massimo Troisi mentre preparavo gli orali di italiano, ripetendo la tesina su Edoardo De Filippo. E poi ancora, mentre crollava il muro di Berlino ascoltando The Dark Side of the Moon, stavamo concependo nostro figlio, Chris e Alberto. E poi un messaggio che riguarda proprio Aldo Moro, quel giorno lì, Paolo. Nel giorno del rapimento di Aldo Moro ero alle elementari, entrò l'insegnante preoccupata e disse: "Hanno rapito Aldo". Noi tutti ci guardammo preoccupati perché un nostro compagno si chiamava Aldo e quel giorno era assente. Tutti a chiedere notizie a riguardo, solo che noi, Aldo Moro, neppure sapevamo chi era e tutti si pensava al nostro compagno. Sapeva benissimo chi era Aldo Moro, invece, Angelo, quando si trovava prima a Torino e poi a Roma. Pronto, Angelo? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Sono a casa e sto ascoltando. Che cosa fai in questo momento nella tua vita, Angelo? Sei in pensione? Stai ancora lavorando? No, ho avuto dei problemi fisici, per cui lavoro sostanzialmente in casa. Ok. Ho pubblicato un libro, sto scrivendo un libro sul 77. Quindi è per questo che, insomma, quel periodo lo conosci abbastanza bene, perché quando, sai che chiedo sempre per quale motivo scegli questo episodio per raccontare in qualche modo la tua vita, o un pezzo della tua vita, insomma. Beh, la risposta è che semplicemente hai dedicato la tua vita a studiare quel periodo, o sbaglio, o una parte. No, diciamo che quegli anni sono stati tra i più belli della mia vita. E purtroppo con gli anni di piombo sono rimasti anni di piombo e non era solo quello, quindi io sto scrivendo su questo, sto cercando di ridare un po' tutte le altre sfaccettature che erano tante. Angelo, cosa intendi quando dici sono sociologo come abitudine mentale? Perché ancora adesso che non lavoro più ragiono in quei termini, è proprio un paio d'occhiali, non so come dire. Un approccio. Sì, infatti anche quando sono successi quei fatti ero ancora studente, anche se mi occupavo già dei corsi dell'FLM, eccetera. Ero già studente, però guardavo le cose da un punto di vista di sociologo. E mi spieghi invece questa affermazione quando dici: avevo provato la stessa amarezza del convegno del 77 a Bologna. Per chi è nato tipo 2 anni prima come me, quindi diciamo a poca memoria, che cosa mi spieghi esattamente da dove arriva quell'amarezza e di quale convegno parliamo? Allora, è il convegno contro la repressione che fu fatto a settembre del 77 a Bologna, contro il Partito Comunista di allora, era abbastanza così, un bluff, c'era l'autonomia organizzata, di lì sarebbero uscite altre brutte cose di quel genere, ma l'amarezza era che era finito un decennio, nato nel 68, si vedeva, si sapeva, si sentiva, e il fatto di Moro è stato un ulteriore chiodo sulla barra di quel decennio. Di quel periodo. Tu che cosa hai fatto in questi anni, da allora ad oggi? Che hai lavorato in università? Hai continuato a studiare? No, ho lavorato in università dopo nell'80 sono andato qualche anno in Inghilterra, ho pigliato il dottorato a Cambridge e poi mi sono inventato un mestiere come quelli di cui parla spesso Radio 24. Mi sono fatto il sociologo così per... Ho lavorato con l'Unione Europea, con le regioni, con le Camere di Commercio. Comunque sempre qualcosa riguardante il modo di vivere degli esseri umani, insomma, in gruppo sostanzialmente. Sì, soprattutto gli imprenditori mi sono sempre interessati. Ma nel senso che ti interessavano come soggetti o che il tuo lavoro interessava loro? No, per me interessavano come soggetti. Ok, che soggetti sono i piccoli imprenditori? Sono una cosa da... molto interessante. Vabbè. Perché c'è di tutto, c'è veramente di tutto. E questo un po' in qualunque categoria, però, no? C'è un po' di tutto. Sì, ma questi si inventano le cose un giorno dopo l'altro, a tutti i livelli. Quindi sei affascinato da questa categoria? Sì, sono sempre stato affascinato. Angelo, devo lanciare la borsa perché appunto di quello comunque continuiamo a parlare e quindi ti ringrazio per la chiacchierata e per il racconto. A presto, grazie, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Angelo, grazie. Ciao. Il mattino del rapimento di Moro stavo subendo processo per omicidio colposo a causa di un incidente di moto. Sono stato assolto. Paolo. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Angelo, nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito, alla nostra pagina radio24.it, la pagina di Voi siete qui, è una foto molto stretta, come spesso capita. Credo anche un po' tagliata, forse per tagliare fuori qualcosa che c'è intorno e che non si vuole far vedere. Angelo è in primissimo piano, ha su una maglietta girocollo grigia, si vede proprio appena appena il girocollo. Ha i capelli appena brizzolati, un viso squadrato. E non so perché, ma nello sguardo ha la sensazione, dà la sensazione di qualcuno che un pochettino ha sofferto. Aldo Moro. Aldo Romeo Luigi Moro, Maglie 23 settembre 1916, Roma 9 maggio 1978, è stato un politico e accademico italiano, 5 volte presidente del Consiglio dei Ministri e presidente del Partito della Democrazia Cristiana. È stato il 12° e 18° presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo da appartenenti al gruppo terrorista denominato Brigate Rosse. Quando abbiamo vinto i mondiali 82, a ogni gol ero a fare pipì. Li ho visti tutti poi, tutti dopo, Giusi. Giusi, ma tutti e tre, cioè tutti e quattro o tutti e tre? Cioè solo gli italiani o anche il tedesco? Strage Italicus, Ettore. Prendevamo tutti gli anni quel treno con mia madre per andare in Austria, dai nonni. Avevo 7 anni e partimmo il giorno prima dell'attentato. 349-238-6666. Sono le 16:35 minuti di martedì 25 giugno 2013. E grazie al racconto di Angelo che ci ha raccontato chi era lui in quei due giorni, il giorno del rapimento Moro e il giorno dell'uccisione di Aldo Moro. Chi era lui, cosa stava facendo e com'era un pochettino l'Italia intorno a sé, che era a Torino prima e a Roma poi, e poi anche in viaggio tra le due città. E quindi stiamo cercando di capire com'è il vostro piccolo pezzo di privato quando è entrato in contatto o anche solo per osmosi ha avuto a che fare con la grande storia intorno a voi. Sono arrivato i messaggi del riguardo l'11 settembre, che non leggo non perché mi siano antipatici, ma perché, ripeto, è già stato fatto moltissimo l'esercizio del doveri quando sono cadute le torri. Invece, dove eravate, cosa vi succedeva quando qualcos'altro di importante in qualche modo è entrato nella vostra vita? Mauro era nel suo letto ad Erto, dice, che era il comune sopra il Vajont, il 9 ottobre di 50 anni fa, quando il TOC è precipitato nel Vajont, portando con sé 2000 persone. Mauro, questa è, se non l'hai già raccontata, questa storia è per forza da raccontare, ma non per forza noi, mi farebbe piacere ovviamente. Continuate intanto, prima che mi dimentichi, continuate a scrivere le vostre storie. Qualcuno mi chiede ogni tanto se vale ancora la pena, vale come la pena, perché a settembre, se non cade il cielo, come citando Maria Teresa, siamo qui e continuiamo a raccontare le vostre storie. Quindi voi siete qui, @radio24.it, da adesso per tutta l'estate, raccontateci un episodio che racconti della vostra vita, che racconti qualcosa della vostra vita. Noi lo prendiamo e ci raccontiamo una storia. Ero a Milano il giorno del rapimento Moro, sul tram 13 che portava in Piazza Duomo per un colloquio di lavoro. Grande confusione in città, avevo 20 anni e il giorno dopo sarei partito per Roma per il servizio militare. Ciao Augusto. Tutti questi messaggi raccontano una cosa sostanzialmente, che la grande vita pubblica ha per ognuno di noi fatalmente a che fare con la piccola o con la relativa vita privata, per cui tutto quello che succede, che ci succede personalmente, entra in contatto con il pubblico. Non per citare la farfalla che sbatte le ali da una parte e dall'altra parte c'è il tornado, no, semplicemente perché noi ci ricordiamo anche delle grandi cose attraverso le nostre private. A questo proposito, con un giro mortale ma nemmeno tanto, ho colto l'occasione per leggere uno dei libri che ho letto in età adulta, anche se avrei dovuto leggerli a scuola ma non lo feci, che più ha a che fare con questa storia. Lo ha scritto Beppe Fenoglio e racconta di come un tizio che fa il partigiano e la cui vita quindi è totalmente immersa nella vita pubblica, faccia di quella questione pubblica una questione privata. L'asfalto non mi piace, ripete Ivan. Su una stradina di campagna puoi farmi fare qualunque follia, ma l'asfalto non mi piace. Aspettami 5 minuti, rispose Keto Milton e avanzò verso la villa. Mentre soffiando, l'altro si accoccolava sui talloni e con lo Sten posato sulla coscia sorvegliava lo stradale e i viottoli del versante. Lanciò pure un'ultima occhiata al compagno. Milton era un brutto, alto, scarno, curvo di spalle. Aveva la pelle spessa e pallidissima, ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce o di umore. A 22 anni già aveva i lati della bocca con due forti pieghe amare e la fronte profondamente incisa per l'abitudine di stare quasi di continuo aggrottato. I capelli erano castani, ma mesi di pioggia e di polvere li avevano ridotti alla più vile gradazione di biondo. All'attivo aveva solamente gli occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi, che la ragazza meno favorevole avrebbe giudicato più che notevoli. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo esteso, rapido e composto. Passò il cancello che non cigolò e percorse il vialetto fino all'altezza del terzo ciliegio. Come erano venute belle le ciliegie nella primavera del 42. Fulvia ci si era arrampicata per coglierne per loro due, da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature. Si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po' più sotto e scoccarle un'occhiata da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo con le punte dei capelli gelate e le labbra che gli tremavano. Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere, non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro alla siepe. Scendi, tu mi tieni in agonia. Fulvia rise, un po' stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell'ultimo ciliegio. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore. Quando hanno ammazzato Marco Biagi ero nella via di fianco e stavo andando a preparare la festa della mia laurea. Mi sono laureato il giorno dopo, 20 marzo del 2002. Dario da Modena. E ancora si parla di morti, però evidentemente hanno a che fare con qualcosa che ci tocca dentro e che ci rimane impresso. Quando uccisero Borsellino ero in barca sul lago di Viverone. Ricordo ancora il senso di colpa per essere così spensierata mentre altrove c'era così tanto dolore. Elisa, se ti può rincuorare, credo che insomma tu non avresti potuto fare molto comunque per evitarlo, a meno che tu non faccia parte, che so, della questura o dell'antimafia. Il giorno del rapimento di Moro era il mio nono compleanno. Quel giorno, mentre stavo tagliando la torta, entrò in aula una maestra disperata che annunciava la strage di via Fani. Fecero sentire la radio in tutta la scuola, rovinandomi la festa, e da quel giorno il mio compleanno è sempre legato al rapimento di Moro. Gerardo da Bassano del Grappa. Appunto, non sempre la grande storia, quando impatta con la storia privata, è un piacere, anche se è sicuramente di portata diversa dalla nostra. Katia, quel mattino ero in comune per le pratiche per il matrimonio. E poi prima avevo letto questo messaggio che diceva: ero nel mio letto ad Erto il 9 ottobre di 50 anni fa, quando il TOC precipitò nel Vajont portando con sé 2000 persone. Mauro, mi sono arrivati diversi messaggi che mi dicono: quel Mauro da Erto probabilmente è Mauro Corona. Non lo so se è Mauro Corona, lui si è firmato solo Mauro, e comunque Mauro Corona a me piace immaginarlo alle 5 meno un quarto di un giorno o ad arrampicare su una montagna o nei boschi con un bastone in cerca di chissà cosa. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma di oggi, che sono Fabio Cantadori, Margherita Ina, Tiziano Bonini. Io vi aspetto al live di giovedì alle 21, scaricate l'ebook dal sito di Radio 24 alla nostra pagina. Voi siete qui. Grazie soprattutto ad Angelo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Marco Fiemozzi, vengo dal Trentino ma abito a Tolosa. La storia di domani è la mia e parlo di viaggiare quasi per caso. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.